capo, se ne fa una per tutti a sto posto. Se tu ora lo riguarda. Sì. Stiamo capendo anch'io sua metà? Aspetta. Però fa una cassa per tutti, si fanno con la cassa. Sì, sì, dai, si fa il pieno e ciao. Voi come state a gasolio? Siamo tra un po' di priorità, quindi la devi fare. Quanto se ne mette? Subito perché sento il phone dell'amplificato, prima ancora che parli. Ah, per il mezzo 60. Beh, sì. Beh, ormai è mitico, è una vita che trasmetto così. Cosa dici? Piove, non piove. Speriamo che piova, piove dica. Ma aspetto che pioggia tranquilla, quello che fa bene, oppure mi farà scendere il cielo? Beh, io preferisco quella buona. Vabbè, l'importante è che non piova, che non sia una pioggia radioattiva. Sono tutti questi matti che ci sono in giro giocando con le bombe. Hai visto? Hai sentito? C'è gente che non le piace vivere. Non le piace la faccia, non le piace la fastidio, se no sono in quella, non sono contento. Oh, yeah, yeah. Cura noi siamo buoni. Cura quello che è ricco, però pure scemo. Poi a cosa serve questo casino? Non lo capisco io. Ah, infatti potrebbe da mangiare al posto, no? Al posto di andare a rompere le scatole a mezzo pianeta. Già mi sta male questa terra, per farti altri problemi. Anche lui ci vuole a far scoppiare per tardi. Lui è abituato a fare queste cose, non ha capito. È abituato. Infatti. E lui ci gioca. Poi arriva quello là che si scemo di lui e ne buttano in testa. Speriamo che non faccia un casino davvero, più di quello che stanno facendo. Sì, oramai sono al limite, dopo quello che ha fatto oggi. Penso che anche la Cina l'ha mollata, quindi per l'altro scemo che negli Stati Uniti c'è la via libera. Sta già mandando quei caccia invisibili per fare le riprese, mica per altro, capito? Per sapere dove colpire, basta, oramai siamo a un passo dal baratro. Più non ho messo tutti esauriti, basta. Certo che è il colmo, Quando eravamo piccolino non sono riusciti a farsi i russi o gli americani, e adesso questo qua ci sta riuscendo a farsi un coso lì, un bambino ciotello che non fa le palle a quel cane grosso lì. Ha visto cosa ha fatto però, Non so quanto ha messo di soldi per aiutare i poveri. Come ti dice di nascondisci? Ma vabbè, cosa che capita, purtroppo la mamma degli imbecilli è sempre incinta e una forma a nato. E così. E da una giornata indecisa, è scesa un bene la temperatura. Guarda, circa 10 gradi qua, da 33 siamo a 23. Adesso speriamo che si stabilizzi un po', che non facciano così sbalzi che si ammazzano. Non casotto. Ma l'altro, non c'è quella nuova ragazza giù a Platavola? No, ho sentito poco fa su WhatsApp, ma c'aveva una voce di sonno, avesse ancora cliccato. Visto. Lo dicono tutti che lavora a massa. I pipistrelli di giorno dormono, capito? Escono di notte. A mangiare. A mangiare, fateli mangiare a mezzanotte. Natalino, cos'è? Un ascolto controllato. Non lo so se c'è, anche a Catania si fa la pennichella, io non avevo voglia oggi. A nostra età un pochino già si fa, dai. Almeno un'oretta, già ci vuole. No, sono rientrato presto da lavoro e non ne avevo voglia davvero. Ho pranzato, poi stavo guardando un po' di TV e mi sono seduto qua adesso. Ancora sono tutti in giro, ma tra poco, che il tempo peggiora, già entra qualcuno in più. Sì, però c'era di Camperugia, tra Valesi, Trinità, Isola Rossa, tutti tedeschi, francesi, ma si iniziano a rompere le palle questi. Sì, vabbè, l'importante è che non sporchino, che non vanno dove andare, fanno bene a finire quando non c'è stata la marmaglia in giro. Ah, cioè, mangiano a sacco, non se ne scendono dal campo e quelli. Non ce n'è piazza di sosta lì, capito? Sono con la Santa Teresa, Vignola, quelle zone lì. Boh. Contenti tutti. E comunque a quelli là, tutto quello là, mi hanno fatto occasionare, mi hanno tutti. Poverini, tutti i ragazzi mi sono stati in macchina. Fanno farlo, davanti a loro col lavoro, cosa le fanno? I ragazzi dicono sono italiani. Non lo so se sono tutti nati in Italia. Capito. Qualcuno è nato in Italia, qualche altro magari no. Però se lo facevano dove ne sono nati. Non credo che li avrebbero trattati molto bene, perché tra poco qua sono fuori. Si conferma. Aspetta un attimo, che mi stanno chiamando. Secondo il telefono. Oh, sì, fai. Scusa un attimo, Claudio, che sono al telefono. Ehi, accettiamo dopo che devo uscire. Già torno subito. Ok, va bene. A più tardi, ciao. Se a casa non rispondi. E beh, cane morto. Wow, chi c'è l'ascolto? Natalinus. C'è qualcuno in ascolto? Hola, attenzione 10. C'è qualcuno in ascolto? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Chiamando, facendo bip, mettendo musica, ma non c'era nessuno. Poi ho sentito dalla mia camera Natalino che chiamava, però stavo facendo roba, sto per cambiare computer. Natalino, ci sei? Eia. Dai, riprendete un attimo che devo cambiare radio, ok? Ecco. Ciao Natalino. Ciao Giù, buonasera, ben entrato. Mi stavo aspettando se ti affacciamo a qualcuno. Così, stanno per passare 10 minuti. Poi prendevo. Ok, e allora? E allora siamo qua a casa, annoiati. In effetti sì, oggi la giornata non è che sia stata bella, comunque. Oh, è bello per passeggiare, perché è fresco, per cui andrebbe anche bene. Stanno per le gara. Sì, infatti, io dopo ricatto me ne sono alzato poco fa, stavo chiamando. Poi ho dovuto aiutare a mia moglie che è dovuta uscire, siamo qua. Adesso quando torna si porta pure il cane. Io stavo guardando la televisione, stavo guardando dei video su YouTube, per cui abbiamo fatto quest'ora. Diciamo che stavo anche aspettando l'ora, più o meno questa, per vedere se c'era qualcuno in radio, ed eccomi qua. Sì, infatti. E intanto ormai sembra che sia proprio la gente che se ne sia proprio dimenticata della radio. Tanto è molto acceso. E altrettanto faccio io, se vedo che non c'è nessuno alla fine spengo. Sì, non ne vale la pena, è stare lì, guarda aspetta, che scendano le macchinoni dal cielo, non ne scendono macchinoni dal cielo. E poi non avevo il pranzo, dunque, tanto peggio. Magari avevo il pranzo per Marco e a quest'ora. Ehi, a quest'ora sì. Hola, hola, hola, eccomi qua. Praticamente ho levato il 3009 e ho messo il 3009. Ah? Questo esce più forte di radio perché ha il trimmer dell'AM è aperto. Si nota la differenza rispetto a poc'anzi, Giulio? Sì, c'è anche uno o due stanziaghi in più anche di segnale. Ma guarda, quello ne ha 4, quello ha 4 watt, questo ne ha 5. Non dovrebbe cambiare se non di 1 dB forse. Un decibel K, eccomi qua, la roba, le radio vanno fatte lavorare se no si rovinano. Oggi siamo andati alla rotonda, a me, a dar da mangiare quei cani, e c'era sempre quella vecchia, quella col caldo estremo, col freddo, deve stare lì, sempre posata in quella, come si chiama? Quella per il tram, quella pensilina. Guarda, vivere così è allucinante, io non so come faccia. Infatti l'ho detto, col caldo estremo, quel caldo tremendo come ha fatto, dovevo sopportare e andare avanti. Non lo so. Da una parte l'aiutano quelli dei Guardian Angels, da una parte quelli del comune le tolgono quell'ambaradan di copertura che ci aveva, tutto sparito, quindi lei sta dormendo all'addiaccio proprio, alla mercé di qualsiasi malintenzionato. Magari la violentano pure, come hanno fatto con quella 81enne, perché ormai con questi neri nordafricani succede di tutto. Vai Natali. Avvedimi. Fanno un po' come. Ascolta Marco, ma tu ti fai a parlare con quella donna? E ogni tanto attacco un bottone, tipo oggi sono arrivato, ho detto buongiorno, come va? Come sta? Anzi ho detto. E lei sempre risponde, ancora viva sono, poi mamma le ha dato 2 euro. Piano piano lì a monete si compra da mangiare. E insomma lì sempre, mamma mia, poi i cani sono sempre intorno a lei, diciamo che li ha. Li usa anche come sistema difensivo, no? Si avvicina di notte qualche malintenzionato, quelli sicuramente abbaiano. E abbiamo portato una scatola grande di bocconcini per cani e ce n'erano solo 2 su 3 e li abbiamo saziati abbondantemente. Notta, portiamo da mangiare il cane e a lei niente. Pensiamo più al cane che a lei. E purtroppo. Ma non si può vivere così, dai, senza un tetto sopra, non si può stare, io sarei già morto, o dal freddo o dal caldo, o mi avrebbero già bruciato vivo. Sì, ma quella donna ormai è abituata a fare una vita così, una vita disastrata che ha avuto. Ho fatto però per 30 anni di carcere quella donna, guarda. Per cui io so che quella donna una volta lavorava nel tabacchino che c'era lì all'ingresso di via Rocchetele, all'incrocio con la strada per San Pietro e la chiesa di San Pietro. Io so che lavorava lì. Sì, lei era stata da giovane nell'anonima sequestri coinvolta. è sfatta. Ah, lavorava prima, lavorava pure e avrà preso a casa, magari non aveva soldi per pagarlo. Scusate un attimo, continuate voi, perché ho notato questo baracchino, no, era nell'armadio, ma si è sporcato il display con una specie di, sembrava cingomma, residuo di cingomma, oppure qualche elastico che col caldo si è tutto sciolto e devo pulire con l'alcol il display. Riprendete voi, dai. Aspetta, però non pulire la scritta lì del baracchino, perché è la cancella. Attento, credo mai perché dovrei utilizzare appena d'olio così sul display e poi lo pulisci bene. Attento, non fare quell'errore. Ebbene, Natalia, allora? E 60 minuti giù. Stamattina stavo stata a chiacchierata con Tore Squalo e con Marino, ma il PMR, però, visto che non c'era nessuno, anche il PMR c'erano due, e sono entrati a salutarmi, ma a 10 minuti, non di più, anche perché ormai era già quasi l'una, per cui abbiamo chiuso subito, là. Ma a 10 minuti è durata la conversazione, non di più. E K, io non ci sono mai riuscito a sentirti lì. Cosa che si deve rispettare, che d'altronde io se sento loro posso anche stare salutando, allora Gian Maria, soprattutto Gian Maria, Battisti, queste persone qua. Ma poi naturalmente c'è un elemento che non ci parlerò mai più, per me è morto, per cui. Ma io non sono riuscito mai a sentirti lì, non ci sentivamo. Ah, ecco. Non lo so, ma non è un problema quello, possiamo rimediare o Natalia. Non è quello il problema. Ma a vedo lì. Non ci sentiamo perché magari non ci siamo voluti sentire, se no ci sentiamo anche volendo. Io non sono riuscito mai a copiarti lì. Evidentemente, perché tu, essendo lì in quella strada dove abiti, non c'è possibilità. Ma può sempre trovare il rimedio, no? È quello, sì. Per cui, perché problemi ci sono? Sì, no, già. Andare, vediamo se è rientrato Marco o se è seduto a tavola per il pranzo. Marco! Sono qua, ho pulito il display, sì, sembrava un pezzo di elastico, sai, con quel caldo che si era un po', come si dice, rovinato, dai, adesso l'ho pulito. Ehi, vediamo se c'è Claudio all'ascolto. Claudio, ci sei? No, ancora non è entrato, e vabbè, già entrerà, dai. Già entrerà. Comunque credo ci fosse freddo, ma freddo, ci siamo portati la giacca a vento, mi sono messo le scarpe un po' scarponcini, i pantaloni lunghi, beh, si stava bene in maglietta, c'erano anche dei billoi a torso nudo, sai, quelli rappati, tutti tatuati, no? Giulia, quindi per me c'è gente che non è stata di mente, ma quando mai uno si deve rovinare il corpo con questi tatuaggi così? Posso capire se ne fa uno piccolino, ma c'è solo certi che sembra una cartina geografica, sempre tutti i tatuaggi, sul corpo completamente scoperto dai tatuaggi, bella bucaria, dove hanno un cervello, questa certa gente non lo capisco molto. Forse quando uno è tatuato è più macio, capito? Risulta più macio, più uomo, ma va. Meno male che il carattere di un uomo non si misura dai tatuaggi. Vai Natali, mi è già sparito, è me. Più macco devi dire, non più macchio, più macco. Che uno non si può rovinare il corpo con tutti questi tatuaggi. A me l'ho fatto il furbo, faccio i tatuaggi quelli che si possono cancellare, invece no, se ne fanno di quei tatuaggi di stampa per tutta la vita, che non si possono più. succede? E se si ritrovano poi diventano tutti, diventa tutta una serie di cicatrici, perché c'è il sistema come tu dico, ma tu lascia la cicatrice. Natalì, sei sparito? No, è che c'era il cane abbaiando e pensavo che stava tornando mia moglie, invece nulla. Ha sentito magari i bambini che ci sono giù e si è messo a abbaiare. Quindi Giulio, io sarei un eunuco, visto che non ho neanche un tatuaggio, così è. Guarda, per me fa parte anche della serietà e soprattutto dell'intelligenza della persona. Ripeto, uno si può fare un piccolo tatuaggio, può anche andare bene, può essere anche carino, ma quando incominci a riempirsi tutto il corpo, fa credere, tu dici più maccio, gli uomini si sentono più maccio, è le donne quella che sentono, più puttane forse. Io posso capire farsi fare un tatuaggio all'enne, quella cosa vegetale, da quei pakistani, no? Ti fanno il tatuaggio, il disegno che vuoi tu, ma poi dura una settimana, 10 giorni, poi con le docce se ne va via. Quello lo posso capire, ma una cosa che a vita ti rimane, certi si mettono il nome della ragazza o della moglie, poi si lasciano, no? O divorzia, gli rimane questo nome senza senso sulla pelle, proprio non ha senso. Queste cose a me, come si dice, indelebili, a me non piacciono, perché se poi te ne stanchi te la devi tenere a vita. Io li considero persone malate di mente, hanno almeno una parte del cervello, tibaria, perché non è possibile che uno si possa rovinare il corpo con queste cose qua. Parte intelligente, come stai dicendo tu, te la fai di quelli che si possono cancellare. Una volta te li fuori erano anche nelle cingomme, nei pacchettini delle cingomme c'erano quella specie di tatuaggi con lo scalcomania, come le vuoi chiamare, te la attaccavi, sbagliavi appena e poi te ne uscivano e andava bene, ma lo usavano le ragazze. Sicuramente si può fare anche così, ma che uno si faccia questa specie di agopuntura, perché in realtà non è altro che una specie di agopuntura che ti penetra tutto l'inchiostro dentro la pelle, cioè sottocutaneo, a questo punto non si cancella più. Se tu devi cancellare devi prendere un bel coltello a filastro e tagli la fettina, allora poi si te ne esce il pezzo. Eia. Poi se fai, si può levare con la laser terapia, però è costoso, doloroso e non esce più, la pelle non torna più come era prima, ti lascia dei segni come dei pasticci, capito? È un casino il tatuaggio, io non ne farei, poi io sono, vabbè, di un'altra, sono più di una cosa classica, capito? Anche nel vestire ero più stile classico, tutto ciò che è indelebile. Guarda, i tatuaggi noi li pigliavamo in edicola o in tabacchino, quelli con l'acqua, no? Bagni la figurina e si trasferisce il tatuaggio. Ti fate il geco, che ne so, quello che volevi tu, però almeno dopo 3 giorni se ne andava col lavaggio, capito? Appunto, è quello che sto dicendo, se proprio uno non piace avere certi tatuaggi, fateli in quel modo, ma non definitivi così. È pazzesco. Chi nasce con dei difetti fisici vorrebbe essere sano. Chi è sano invece si rovina sulle proprie mani, ma non è possibile, perché per colpa di lei significa rovinarsi il corpo, la pelle soprattutto. Perché a parte il fatto che non so fino a che punto faccia bene, no? Questa introduzione sottocutanea di questo inchiostro, con questa puntura, con una specie di puntura che fanno con quest'ago meccanico, eccetera. Non lo so fino a che punto è una cosa sana. Non lo so, la verità. Comunque, facciano quello che credono, che se la frega. Avanti, la salita. Il capo, infatti, io non ne ho neanche uno di tatuaggio. Oh, ma quando mai? Ma cosa fai? Una volta se le facevano i delinquenti, se le facevano, ma i delinquenti anche quelli calmissimi, non quelli piccoli delinquenti, non bagagliero, quelli non se le facevano nemmeno, e di queste, quelle che assassinavano le persone, gente proprio di una certa prepotenza, di una certa cattiveria, erano loro che, ma e se lo facevano anche piccolino, non è che si riempivano il corpo, quelli, per far notare che erano magari, come dici tu, dei macchi, no? Erano i guai dei delinquenti, e così adesso sembra tutto il mondo, è diventato di quel rango lì. Sì. Poi vabbè, una cosina piccola si può fare, ma io no, a me non mi interessa il tatuaggio. Va bene. Claudio, sei entrato? Claudio, la porta è aperta. Oh, te ne andate in giro a vivere, no, come noi, no? Rimaniamo così, rintanati a casa. Che Dio ti intendia. Sto lavorando io stamattina, Giulio. Buonasera a tutti. Vi sto ascoltando, date 25 minuti. Claudio, ma è un miracolo, è successo un miracolo. Sei entrato in VHF. Sì, beh, stavo ascoltando il 20 metri, sono entrato a salutare a Giovanni e Alessandro. Un miracolo, dobbiamo brindare, mi Giulio. Non ti sentivo in VHF da mesi e mesi e mesi. Bene, mi fa piacere che sia entrato a salutare qualche amico. Vai Natalano per Claudio. Ciao Cla. Ciao Natalino, ciao anche Giulio. Beh, io quando sono le persone mi fa piacere salutare, saluto. Quando no rimango in ascolto come fa Giulio, capito? Va bene. Sentivo Vanni, infatti lo superavo ad Alghero, su tutte e due di Alghero, era 70enne Vanni. Va bene, arrivo subito, vai. Ok, ciao, esatto. Per la figura abbiamo fatto ieri a livello di Carta Italia. Vabbè, comunque, ne parliamo un altro momento. Sì, oh Marco, d'altronde è così, cosa ci vuoi fare? Ripeto, tornando al discorso dei tatuaggi, sono di tutta un'altra mentalità. Ora sì che sono di questo io, che ne so. Però io continuo a vivere nella maniera più classica possibile e soprattutto cercando di fare la persona seria o Marco. Quasi seria, dai. Troppo seria no. Ogni tanto bisogna sventiare. Cosa ti volevo dire? Mi Natalino mi aveva detto della partita Spagna-Italia e sai cosa ho pensato tra di me? Ho detto Spagna brutta bestia, mi 3-0 ogni giusta, e la Spagna è forte, mannaggia. Poi diceva che gli italiani non erano tanto, non so chi l'ha vista, io non l'ho vista, non c'era l'Italia di così, gli spagnoli sembravano delle macchinette, gli italiani no. Italiani come sempre. Boh, Natali, tu l'hai vista la partita, come ti è sembrato? Quando ne avevano segnato due ho preso e spento il televisore. Spagna chissà perché ha sempre la fama di essere una squadra forte. Vabbè, pazienza, io la mia vita non cambierà a me, anche se l'Italia ha perso. Vai Giulio. Ok Marco, sì, diciamo che in Spagna il calcio migliore del momento, almeno in questi ultimi anni, sono in Spagna, poi gli altri, lascia perdere, sia a livello di nazionale, a livello di club, di tutto. Per cui c'era un abisso, o Marco, io l'ho guardata tutta bene e anche con attenzione, anche perché sono appassionato del calcio, per cui, ma c'è un abisso, tra l'Italia e la Spagna sono di gran lunga superiori gli spagnoli, tecnicamente, fisicamente, tatticamente, agonisticamente, in tutti i sensi. Siamo lontano tanti, ma tanti miglia da loro, o Marco, per cui anzi, dobbiamo stare attenti, se no non partecipa l'Italia nemmeno al campionato del mondo questa volta, perché adesso si deve qualificare, si deve guadagnare la partecipazione ai mondiali, con i playoff e ci sono delle squadre interessanti, non so se l'Italia ce la fa a battere, perché facendo i playoff non è che sia così tanto semplice, sono tutti agguerriti per poter partecipare. Ma comunque, a parte Natalia. Ma arriva la sera, ministro proprio Varati, mi ho spento il televisore, come ho visto che gli ha fatto il secondo gol, boom, ho preso e ho spento. Morti, siamo morti, confronto a loro. Solo il secondo gol, del gioco che vedete Natali, ha ragione Giulio che siamo dei pupazzi. Giocatori che in Serie A fanno spettacolo, fanno vedere chissà che cosa. Catricini non ha toccato palla, Gandreva era un mucchio, senza contare la difesa, Baccarindè non ne fa vedere. Sì, nella difesa, cominciando dal portiere, io guarda, ho guardato la registrazione del primo gol, quello su punizione di Isco, fotogramma per fotogramma, lui si è mosso il portiere, quello che dico il numero uno dei numeri uno, forse una volta, ma oggi non è nemmeno il numero 5 dei numeri uno, lui, secondo me. Stavo dicendo, fotogramma per fotogramma, guarda. Isco aveva già tirato, calciato, eh? La barriera si era già mossa, il pallone era entrato e lui si è lanciato. Poi non ce l'ha potuto arrivare perché il pallone è passato prima. Per dirti no, questo è uno. Poi non parliamo del discorso Bonucci che lui si ha procurato, ma quando mai un esperto, come dicono loro, un grande difensore, come dicono loro, eh? E che poi tutto da vedere anche quello, perché lui era un grande difensore quando aveva gli amici che aveva di fianco, ma in questo modo oggi ce ne aveva lo stesso, ma ormai sono vinti, a parte il discorso che non c'era Chiellini, vabbè. E vai a fare la posizione da lì, sapendo che quelli sono specialisti. No, non è possibile, guarda, non è possibile qua. Assolutamente, sono d'accordissimo. Vabbè, datemi qualche minuto che vado a portare a Filippo perché non mi fitto, ed è qua che mi sta rompendo, già torno subito. Ok. A dopo allora qua. Vai Marco. È successo qualcosa? Cosa è successo Marco? Guarda il segnale, vede i segnali più bassi, roba l'onfia. No, è uguale, il segnale è uguale. Ripeto, questo secondo barattino è almeno un Santiago più forte di quello che avevi visto quando è iniziato, da appena ci siamo sentiti. È leggermente più forte, diciamo che è quasi uguale, però almeno un punto S in più c'è. Non lo so, c'è qualcosa che non va, vedo i segnali bassi. Tutti, state arrivando tutti nove. Vabbè, quello può essere un altro discorso. Il discorso delle tutti nove può essere il segnale e può essere lo smitter, però come trasmissione sì, leggermente più forte dell'altro, te lo posso assicurare. Avevo guardato bene, attentamente, poi io ho anche il tuo segnale segnato, proprio per effetto del discorso, per quando metteva a posto l'antenna, eccetera, eccetera. L'avevamo discusso, ma mi preoccupato e me. E io gli arrivavo di più di nove. E oggi dovrei arrivarli di più a chi ero un 10, capito? Prima ero con 5. Beh, sicuramente, anch'io ne dovrei arrivare intorno ai 9:15, almeno modulati, così, con l'antenna che sto usando adesso. Ma comunque, oggi sono salito e messa in maniera un po' precaria, questa bisogna che mi decida a sistemarla descrittivamente, ma comunque ancora è al detto, non è un problema. Marco, vediamo cosa è successo. No, allora se arrivo uguale è un'anomalia nello smitter, praticamente non scende, più di tanto non scende e i segnali alti sono alterati, prima arrivavate tutti con segnali molto forti, adesso siete tutti nove, però se mi dite che il segnale è uguale allora non è l'antenna, spero non sia l'antenna. A me mi arrivi 9:20 qua. Ma come prima, come un attimo fa? 9:20 mi sta arrivando. A me mi sta arrivando 9:07. E prima con l'altro, quando appena ci siamo sentiti stasera, è di 9,5, così. Dunque è leggermente più forte questo. Eia, poi forse ha più picchi perché ha la... ha più alta anche la... la modulazione, dai. E quindi dicevamo, mi sono perso, mi sono allarmato per questo cosa della, della radio. Ma non ha niente, per la trasmissione non ha niente, poi è del resto. Comunque, in effetti hai ragione, ha lasciato i fermi che rovinano. Io ho un barattino che non lo stavo più usando, l'ho attaccato, non riceve, però non trasmette. Solo in AM e FM. Poi in banda lontana trasmette anche. Senti, io adesso infatti non ho avuto nemmeno voglia, soprattutto nemmeno il gusto di aprirlo per vedere se riuscivo a sistemarlo, eccetera. C'è un lì nel tavolino e basta. Se poi tra l'altro è quello tipo 2009. Marco! Ehi, sono qua, ho provato a fare una cosa, a spegnere tutto, scaricare i condensatori accendendo il baracchino senza alimentazione, ma non... caspita, no, perché così io ho pensato, va, si è piegata l'antenna, è caduta giù dall'antenna, sai, col vento. Adesso potrei rimettere l'altro e fare e vedere cosa è successo. No, è successo niente, è solo un Twitter. Sta facendo difetto, ma non niente di più. Comunque cambia roba, quello che dice. Tanto il discorso è quello. Va sempre bene, perlomeno il trasmissore va bene, poi lo smite si sa. Può anche andare la Badia, non è la prima volta, ma sì, chiaro si sa. Soprattutto se lo lasci tanto tempo fermo, può uscire qualcosa, che ne so. Ci sarà il freno a mano, avrà detto freno a mano con lo Smith. Freno a mano in ricezione, cioè. Appunto, a meno che non ha passato lui la ricezione, andata lì. Fate l'immagine che sia così, no, quando mai a quel punto, no? Ma boh, che vuoi che ti dica? Se lui ha toccato l'RSG, ecco che a quel punto lì lo smettere è chiaro che siete e lo sta risultando. Però anche con l'RSG in basso i segnali dovrebbero essere vari, sia il mio come dal tuo, là, e così via. Invece lui dice che sono sempre di Santiago 9, evidentemente è difettoso lo smettere. Mettici il test al mare, oh, Marco, si colleghi il test e si colleghi all'altoparlante, guarda, e vedrai che il segnale sarà là, anche meglio del corso, dello switcher stesso, perché a ogni modulazione, a ogni picchi di decibel, sale la mancetta dello switcher, del test. Eccomi, un attimo. Sì, qua è tutta manetta, eh. Allora, stazionarie non ce n'è. Non ha l'antenna, non ha nulla, lo smitter del baracchino si è sballato, capito? Anche l'altro un po' ho avuto di... quello display rosso, lo sai? Deve essere che gli smitter sono un po'... questi smitter sono un po'... capito? Dopo un po' di tempo bisogna ritirarli. Niente di grave, dai. Infatti... tu te lo ricordi quanto ti arrivavo io? No, però eravate forti. Giulio, poi non ne parliamo, Claudio. Comunque voi due eravate forti, adesso siete Santiago 9. Vabbè, comunque niente. 1-1 qua, dai, 1-1. No, perché il rosmetro del baracchino mi misurava stazionarie. Saliva, invece non ce n'è, ho messo l'MFJ e non ce n'è, tutto a posto, dai, mamma mia, mi assusto Giulio. Ehi, addirittura, già sei sempre come deve fare, ti colleghi un filo dall'altoparlante, ti colleghi, non ti dico dalla presa delle cuffie perché poi non sei, ma se tu un collega direttamente andato a parlare, se ti metti in testa, no? Tutte le volte che noi parliamo, lo switcher del test dà i colpi, i segnali ce l'ha, insomma, ecco. E te ne rendi conto, se va bene o male. E così si può dare anche un segnale forse un pochino più serio. Ehi. Qua c'è un disturbo impulsivo elettrico, ogni tanto fa così, e certe volte arriva forte lì, caspita se arriva forte. Va bene, dai, abbiamo fatto allarme, no, perché una volta che l'antenna ha problemi, una seccatura, portarla giù, mamma mia, non mi ci far pensare, va bene. Anzi, ha resistito anche troppo, dai, a questi, a dei venti forti che ci sono stati. Ok, stavo pensando, non ho più sentito nemmeno a Franco di Sorso. Poi lo parliamo dell'altro Franco, come si chiamava quell'altro Franco, con il titolo? Ah, Franco Bianco. Quello ha fatto l'entrata delle ore e l'uscita del cagnolino, perché non si è più sentito per questo. Non ho più sentito a Benito, non ho più sentito a Coso, a Gabino di Porto Torre. Sì, e poi è l'altro anche chi era. Poi c'era anche Gianluca di Porto Torre, anche quello, perché non ho più sentito. Tutti spariti. Sì. Non so se sia diventato radioamatore Franco Bianco, non lo so, ma pareva di sì. Ah, lui aveva detto che aveva fatto richiesta, perché lui era appunto diplomato, non so che cosa, forse qualcosa di elettronica, non lo so, comunque dice che stava aspettando la patente, l'avevano mandata, comunque. Anche se ha ricevuto la patente, ammesso che l'abbiamo mandata, si poteva far sentire anche 27, no, tutto è sparito, lui ha fatto tanto, per la veglia, ha comprato, si è attrezzato, eccetera, e poi invece è sparito, evidentemente, o non ha tempo, è impegnato col lavoro, o perlomeno non ha poi tutta questa passione per la radio. Purtroppo c'è una categoria di persone, no? Che prima entra al baracchino, ci possono stare poco o molto, poi una volta diventati radiatori scompaiono dalla 27, credono che essere radiatore sia un ceto sociale superiore, quindi non si possono più abbassare a entrare in 27, no? Una volta che sono radiatori. Credono loro di essere superiori a quelli della 27, non lo so, comunque certi fanno così, abbandonano la 27, proprio non la considerano più. Io dico buon viaggio. Ah beh certo, anch'io vi dico buon viaggio e felice ritorno, se proprio vogliono ritornare, già siamo qua, non mi vedo, non ce ne so. Tanto più sentito, l'hai tu? No, da un po' di tempo no, e tutti spariti sono. Franco di Sosso, Franco l'altro, Benito, si sta sottigliando sempre di più. Vabbè, Gabriele Polo Torres è proprio da tanto che aveva mollato. D'altronde sai, chi lavora poi deve, insomma, chi ha la famiglia deve pensare a portare fuori moglie, figli. Per il baracchino io sono uno dei pochi che ha anche troppo tempo libero, Giulio. Ok, beh, tu vabbè, lo lavori, per cui tempo ce l'hai, quello sì, ne hai tanto, te ne avanza anche. Vabbè, diciamo che più o meno io ormai sono nelle medesime condizioni tue, io tempo ne ho tanto, però ogni tanto io mi riesco a fare qualcosa, no, non mi piace stare fermo, non ci riesco, assolutamente, intanto tu tutte le mattine esco, tutte le mattine immancabilmente, salgo, vado in bottega, anche se non faccio niente, non me ne frega niente, però arrivo a un certo punto, andiamo un cappuccino, una coccia, una pasta, una chiacchierata, però salgo tutte le mattine immancabilmente, poi magari se c'è da comprare qualcosa per casa, mi interessa anche a quello, e poi se c'è da fare qualcosa a casa, mi trattengo e piano piano me lo faccio, ma senza sacrificarmi più di tanto, nella maniera più solita, anche perché non vogliono qua, non vogliono che io fatichi più poco, mi chiedo se basta ancora. In effetti hanno ragione, 62 anni ho lavorato, perciò credo che basta e avanti. E sto sempre continuando a lavorare, perché quando c'è da fare qualcosa per casa, anche da poco mi sono fatto l'angolo con una parete, una fitta parete, dai, con un... soprattutto per collocare il frigo, perché dove ce l'avevo non mi piaceva, e allora l'ho spostato e gli ho fatto, diciamo così, chiamiamolo il buco adatto, proprio per il frigo. Anche quello ha comportato un po' di lavoro. La settimana scorsa mi sono imbiancato parte della casa, salone, eccetera, eccetera. Nonostante che c'era molto caldo, mi sono imbiancato il salone, che è grande, 50 metri quadrati. Adesso appena mi è stata di nuovo in mente di fare qualcosa, prendo ad un alunno mi faccio le salse, capito? Ma però solo cos'è per casa, ok. Natalina, riprendi? Ritornando a quelli là, non parla, non è qua e non è là poi. Ma chi? Quelli del 20? No, quelli che prendono la patente, abbandonano la 27, entrano di là, non gli piace e non parlano, né là e né qua. Alcuni fanno così, credono di fare, ma nei monti poi pila la patente alla fine non... non lo so, guarda. Non lo so. Io la patente ci avevo pensato, poi ho detto ma che me lo fa fare, poi non posso manco, sono più controllato, non posso entrare manco PMR con qualche watt in più, sei troppo controllato quando sei radinatore, non puoi sgarrare nulla che subito rischi la patente. Poi mi sono veduto anche la radio, l'857, proprio per dire basta, non mi voce nulla, non ne voglio sapere niente della banda amatoriale. Troppo devi segnare tutto quello che fai, i nominativi, con qualsiasi persona che tu parli, troppo scocciante. Poi non ho soldi per antenne buone io, per quelle bande sono delicate, non mi interessa, non ascoltavo più manco in 80 metri, né in 80 alle 40, non stavo più ascoltando l'HF, mi sono buriato anche di quello, tanto dico le solite cose. I contest sono sempre i soliti, i discorsi sono sempre i soliti, basta. Almeno al baracchino è più attiva la cosa, scherziamo di più, ridiamo di più, certe volte vabbè. Sì, ma no. Si esagera, ma parlo per me. Ok, vai Giulio. Ah, io ho sempre detto, a me piace la radio, anche le altre frequenze, indubbiamente. Mi piace lo stesso, mi piace anche ascoltare, però ascoltare poi più di tanto non puoi se non hai le antenne. È il motivo per cui io non ho mai fatto l'esame da radioamatore, è proprio questo il motivo, perché mi dovrei riempire il tetto di antenne. Mi dà fastidio, mi dava fastidio la mattava 5, mezzo cavata proprio per quel motivo lì, cioè la mattava 5, la mattava tutto. E non lo so se la piacerò mai più, non lo so, adesso è sdraiata lì nel poggiolo, tutto lo stilo, tutto lungo, che era dove essere tenete lungo, e nel poggiolo su della mattata, perché io ho due poggioli che fanno l'angolo, no, uno di facciata e uno di fianco. Ed è 8,50 metri l'uno, per cui a voglia se ci sta, e la lascio lì, forse si macchina lì, sdraiato per terra, tanto nel poggiolo che ci pare, questo per contatto, l'avevo anche ripristinata, l'avevo, perché la base dove appunto dove si attaccano tutti i radiali eccetera, l'avevo ripristinata, totalmente a posto, ti ricordi che non era più forse circuitata, l'ho sistemata a posto, tutte in ordine, i radiali li ho chiusi, li ho ammucchiati e li ho lasciati tutti insieme e li ho sistemati da una parte. Altrettanto vale per la molla, quella per regolare stazionaria e tutto il troncone della base, eccetera, non c'è, tutto messo da parte. Ripeto, io lo stilo centrale non l'ho voluto smontare, un po' perché magari mi viene di nuovo l'idea di rimontarlo, perché tanto vado lasciando come. E un po' perché ho pensato, ma se adesso lo smonto è capace che non si smonta. Sicuramente l'ho lasciato intero, così pensa che c'è ancora quel funghetto che c'è in punta, c'è ancora quel funghetto intero, nuovo, per cui anche perché io l'avevo riportato con del nastro eccetera, il funghetto, quello che serve per il fulmine, è disapparecido. Sono qua che io mi sto muovendo in casa, perché se rimango sempre seduto mi si gonfiano anche i piedi. Oh, soffri anche di quello? Cazzo, quest'anno mi si stanno gonfiando i piedi e allora me ne sono alzato a fare qualcosa. Una bicicletta, la tagli in due e ti tieni da parte dei pedali. Seduto stesso non fai altro di girare le gambe, come se stessi pedalando. Peccato che non c'è il box questo baracchino, perché la cicletta ce l'ho. Allora te lo piatti, te lo installi sul manubrio della cicletta e va bene lo stesso, no? Che problemi ci sono? Con una di quelle cuffie per l'ascolta. Oh, scusate, volevo dirvi che sul forum Roger K, a chi serve, stanno dando un Eco Master Plus tenuto maniacalmente a detta del padrone, ci sono anche le foto. Se interessa qualcuno, contattatelo. Non ce l'ho io. Eco Master Plus, quello col gambo che si piega, che si appiattisce. Da qualche annetto anche. Quello è bellino, sarebbe piaciuto anche a me, per dire, esce bene in radio, però sempre, non lo so se hanno cambiato la capsula, costano dando 44 euro, però più la spedizione ovviamente. 44 euro, com'è, buono il prezzo per un Eco Master Plus? Io avevo pagato 30, per cui è nuovo e funzionante alla grande. Perché sai cos'è, non ce ne trovano tanti in giro, non ce ne trovano più tanti in giro, poi tenuti bene e tanto meno, ma alla fine sai cosa ti dico, mi tengo l'MBP5, magari non sarà limpido come l'Eco Master Plus, ma ci andrà per una testa. A voi se va bene, e a voi guarda Marco, non ne vale la pena spendere nemmeno un centesimo per questo. Non c'è nessuno, cosa stai a fare? No. Poi naturalmente sono i tuoi, c'è il tuo, è ovvio. Dico, ma secondo me non ne vale la pena, nemmeno a comprare un piede, guarda. Non solo di comprare apparecchiature o microfoni o antenne, eccetera. Non ne vale la pena, nemmeno a comprare un piede oggi come oggi, per il numero di persone che ci sono. Aspetta un attimo, mamma mia, c'è un casino qua, io sto disturbo elettrico, poi si ferma, poi rinizia, fa un rumoraccio, ma chissà cos'è, qualche computer, boh. Ed è vicino all'antenna, perché poi la tela si prende tutto. Dicevo Giulio, se io proprio avessi voluto fare il radioattore, avrei potuto mettere solo, a meno che non mi fossi azzuffato malamente col padrone del terraccio, con tutti e due i padroni, una verticale solo, tipo CP6, oppure la Pro Sistel che fa 40, 20, 10, 15 metri, oppure la CP6 che è un po' più corta ma fa anche gli 80, ma rende poco, rendendo poco ti stanchi prima, fai poco e alla fine poi lasci perdere tutto. comunque la CP6 francamente è delicata l'antenna, perché alla prefettura hanno una CP6 e ogni tanto la vedo piegata per il vento, si piega proprio, ogni tanto la raddrizzano, ogni tanto si piega il, diciamo, lo stilo più lungo. Marco, se vuoi, se uno si mette in testa di fare il radioamatore, non deve fare a livello di grido, ci vuole una direttiva, ci vuole, dai, questo, se vuoi andare veramente bene, la verticale sì, quello che vuoi, poi uno si può anche accontentare, però una volta che sei lì, intanto ti invoglia a comprare, eccetera, ma chi te lo fa fare? Ripeto, io non ho mai preso la patente per questo motivo, perché non mi voglio riempire il tetto di antenne, no, poi, a parte che poi ci possono essere dei problemi, non solamente per me, per gli altri, che può anche succedere, no? Abitando dove abito io, dai, non è come ad esempio come dove abita Claudio, che è in alto, è tutto un diverso discorso, ha tutte le possibilità e le comunità di fare quello che vuole. Beh, io nel posto dove sono, potrei anche, sa mai, potrei anche dare fastidio. Ma va bene così, ce l'hanno qua e via. Però adesso avrei anche tutto il tempo per poter studiare, eccetera. Ma non ne vale la pena, Marco, ma tu sei convinto che ne vale la pena? Per me non ne vale la pena, ma cioè la passione non viene ricompensata da quello che si spende, per quello che si spende, troppo si spende, chi me lo fa fare? Vabbè che la propagazione aiuta, ma sono molto rumorose anche queste verticali. Guarda, a me piace personalmente anche quella cornuta, la Comet H422, e a V è bella larga anche, no? Perché sono 7 più 7 metri ed è trapolata, e c'hai 10, 20, 15, cioè 10, 15, 20 e 40, la fa anche la ProSister quell'antenna lì, vedi, almeno è a V, abbastanza larga come V, è multibanda, insomma è un compromesso buono quello, vedi, quello è già più buono, più silenziosa perché non è verticale, però sai, sempre seccature, poi qua vedono antenne grandi, gli viene un infarto a questi, credono che più grande l'antenna più disturba la TV, è gente ignorante qua, capito? Appunto, per fare certi piatti, diciamo che ci vorrebbe essere spazio, soprattutto magari possibilmente alla campagna, se fai un traliccio, che fai, e attacchi tutto quello che vuoi, ma in campagna però è così, non avrai mai problemi di nessun genere, ma in città, forse da questa cosa, lascia perdere, dai, è uno scandalo, guarda, è uno scandalo, vedere tutta questa cosa, queste antenne che girano, non ci vuole nemmeno pensare, guarda, perché non fa per me, non fa per me, fa per me la passione della radio, però no, per queste cose, no, tu mi dirai, ma uno può anche fare attività, mettere i polli, mettere, sì, ma anche i polli, invece di installare a una certa testa, perché tu li metti vicino al tetto, e non ti rendono, il polo vuole alto una decina di metri dal suolo da dove è installato per poter rendere, se no non hai sempre quei limiti e basta, e poi no, assolutamente, non ci penso nemmeno mai. Eia. Invece nella vecchia casa il terrazzo era di proprietà, potevamo al limite mettere tutto quello che volevamo. Questo palazzo in realtà è molto più alto di quello dove abitavamo prima, infatti prima avevo, tanti anni fa, no? Avevo una boomerang, ma scusa la boomerang, avevo una Grand Plane 3 radiali, no, della Sigma, però tutti mi dicevano come mai sei basso, capito? Perché era molto incassata e avevo soprattutto tutta cornicetta che mi chiudeva completamente, però non come adesso mi chiude relativamente, ma prima mi chiudeva parecchio, insomma era molto incassata l'antenna. confronto adesso, quando ho rimesso questa antenna, no? Come quella di Natalino, il palo, vabbè, non è molto alto, ma caspita, vede molto di più, molto più in alto il palazzo, molto più in alto l'antenna, non c'è paragone. Oh Giulio, io ti avevo mai mandato il video del terrazzo mio, cioè la veduta a 360 gradi dal terrazzo, te l'avevo mai mandata? No, mai, assolutamente no. Guarda, tramite WhatsApp ti manderò un link a YouTube, quindi se c'hai connessione, un link a YouTube e vedrai cosa vede il mio terrazzo. Riconoscerai sicuramente il palazzo di Piazza Castello, il grattacielo, quindi più o meno un'idea te la fai. La zona molto libera è verso Alghero, verso nord ovest tipo Stintino, e a portata ottica O, la zona industriale di Porto Torres, mentre la città di Porto Torres è appena coperta dai palazzi di Prunicetta, capito? Quelli tipo via Gorizia anche. Sorso è coperta, Senno è coperta, Alghero ce l'ho davanti invece, ci vedo proprio le montagne. Guarda, te lo mando, così ti fai un'idea della veduta. Ok, dai, è sempre bello vedere video di antenne di queste cose qua. Però all'epoca non c'era l'antenna piazzata, questa aveva 5 ottavi, non c'era. C'erano i resti della vecchia Boomerang, quella del 92, pensa. Perché noi prima eravamo via le Mameli, no? Poi nel 92 siamo venuti qua in Vienizia, capito Giulio? Ciao Eugenio, sì, ma ciao Eugenio, ti allegra, io la vita. Va bene, ma andiamo a studiare dopo la parte. C'è acceso il telefono, per cui non ho questo problema. Bene, io avrei un'altra possibilità, volendo installare un'antenna lì da casa di mia madre abita in alto, da una via del Caldo Mangiù, che si può immaginare, lì, da lì si vede il mondo si vede da soprattutto te, perché è molto in alto, si può immaginare, tutta la salita di via del Caldo Mangiù, poi via del Caldo Mangiù, e c'è di bella visuale. Ma chi me lo fa fare? No. Quindi avrei potuto anche fare un modulatina quando capito a casa di mamma, ma non siete nessuno. Vabbè, così, se tengo tipo... avanti Eugenio. Eugenio? Ha risposto, avanti Eugenio. Ok, io ti ascolto, non so se Marco ti ascolta. Sì, tutto a posto Eugenio. Marco, non lo sento Eugenio. Ogni tanto il disturbo elettrico me lo copre. Il QRM, le scariche elettriche, sono scariche elettriche, il QRM praticamente l'antenna è come un condensatore, no? Che accumula le cariche e te le fa sentire tipo tra e così via. Insomma, il QRM ok, io ti sento, la verità. Non so in quale posizione sei, ma Santiago 5 già ti sento. La radio è discreta, per cui va bene così. Anch'io sto uscendo bassissimo, non sto usando per niente basso, proprio basso, a livello di corso, di omologato, insomma, ecco. Siamo lì. Vediamo un po' se è rientrato Natali. Sono qua. Fatta due ore per passeggiare, se oggi ti sei sovitati, ti muscoli. Mi sto piazzando una pentola qua e vi sto sempre ascoltando. Una pentola nel baracchino ti stai piazzando per raffreddare? No, è terra. Ah, è terra per raffreddare il baracchino, nel tavolino, insomma dove ce l'hai, dai, nella postazione radio. Se così la vogliamo chiamare, la postazione radio se ce l'avremo in campagna. Ormai sempre passate non si devono rimpiangere mai, o Natale, fregate, va bene lo stesso, questo problema. Tanto per me sentite Santiago 9 più 20 come se abbiamo arrivato prima, andavano a teste. E per me sei sempre Natalino, per cui. No, non ce ne sono problemi. Lo senti a Eugenio, l'hai sentito al portatore? No, ragazzi, qui non lo giudico. chiamata lì, ma ti ho detto. Forse non ti ha sentito, l'hai sentito la tali? Ho sentito solo il quando ha attaccato. Non mi piace, vabbè, ti ha salutato comunque alla grande, con tanta allegria, per cui che richiedi, se non ti faccio la foto io eventualmente. Vai Marco. Sì, Giulio. Ci sono dei momenti in cui qua QRM non c'è, ma altre volte si sente questo disturbo, questo poi è modulato, è modulato perché è come che avesse varie frequenze, varie tonalità, è come se fosse un computer mio, roba del genere, e quindi vabbè, me lo devo tenere questo disturbo. Dai. Signori, è arrivata la pappa, mi dispiace ma mangio adesso, dai, non mi ero accorto che era tardi e sono le 7:15 addirittura. Sì, aspetta, prima un attimino, il QRM quanto ha di segnale lì? Così facciamo anche ti faccio un'idea anche per il discorso segnale che stavamo parlando, tutti saltiamo nuovo, eccetera. Il QRM quanto hai tu lì? Ma lo smitter è andato. Ma è andato proprio, allora, sì, questo. Messo male come smitter, vabbè, devi pranzare, pranza pure, buon appetito Marco. Poi se chiudo qui ma mi senti salutato, non lo so. Vai a pranzare, vai. Avanti Natalia. Cappa, anche la parte mia ritieni ti salutato se non rientri. E io ho piazzato la ventolina qua. Già messa in funzione, vai. Ehi, allora. È di quell'evento di computer con un trombone che c'aveva e mandava l'aria al processore e non funzionava il ventilatore. Ok, sì, è ben certo. Quella hanno la polarità, se l'avete come l'avete avvertito non parte, perché hanno il più alto, ecco, per essere chiari, hanno la polarità, sono polarizzati quelle ventoline. Avanti Eugenio, lavorando sai, Eugenio si vede che è mollato per il lavoro, Eugenio ci sei? E è mollato per il lavoro, è stato così, perché lui era portatore, e mi ha fatto di capire che era sul posto di lavoro. Perché da casa sua l'ho già lo sento, capito là, evidentemente era in macchina. Sì, non so se era lui che stavo parlando, perché sentivo una modulazione, mai altro combatto, non si capisce adesso. E non so se era lui, ma non credo, però, che lui era molto più forte. Sì, e beh, lui lavora lì, no? Lui lavora lì, in quel posto, per cui... l'ha detto e allora si fa sentire nei momenti che può. Sì, infatti. Vabbè, dai. Se siete lì, ancora per la cena è presto, però si sta avvicinando al gran galoppo, l'orario della cena. Io mi ho visto la ricetta proprio della carbonara, il video proprio di un cuoco, l'ho fatta uguale. Però col pecorino non mi piace, troppo voce il pecorino. E l'ho fatta, come diceva lui, però non mi è piaciuta. È uscita bene, però il sapore del pecorino era troppo forte. Ok, vabbè. Usa la grana, mette grana al posto del pecorino, mette grana e sei a posto. La moglie la fa sempre, la carbonara, quindi la mette grana, perché non mette il pecorino, mette la grana, capito? Ma è difficile da fare, non è tanto facile, no? Se no l'uovo ti esce tipo frittata, non va così. Come te l'ha fatta Gesù e si va a bere, che l'ho già fatta l'altra volta col grana padano. L'ho fatta perché non ne avevo pecorino e ci ho messo quello. Beh, era più buona col grana padano. Abbiamo visto? Dipende anche dai gusti, alla volte dipende anche dai gusti. Se a uno le piace un sapore forte, ci mette il pecorino, se no ci mette il grana padano e va a mettere bene. Ma mia moglie lo fa sempre con grana padano, per cui non ci sono problemi. Va benissimo. va benissimo la salita. Io penso che anche con la ricotta muschia, quella dura, la graziale, anche con quella dovrebbe essere buona. Ti piace, perché no? No, no, perché c'è il procedimento e ci vuole per portare formaggio grattugiato, e poi si deve fare questo procedimento qui e penso che la ricotta non vada bene. La ricotta va bene sulla pasta asciutta, che a me mi piace un bel di solo la ricotta è paurosa. Non credo, anche a me piace moltissimo così, è per quello che te l'ho detto, che la ricotta muschia, quella nulla, quella della grattugia, va bene, è buona. Magari poi ci puoi mettere prima un po' il formaggio e poi ci metti una bella fina di ricotta sopra e c'è anche la fine del mondo. La pasta asciutta così è buonissima, veramente, a me piace molto così. E anche a me. Comunque la carbonara obbediente la quasi che è tipo frittata all'uovo, perché sbagliano, io l'ho visto fare da un cuoco e mi ci da precisa. Non è vero la napadana, vero, molto saporita. Sì, ma se uno si vuole divertare a fare dei piatti così per passione, eccetera, basta guardare i piatti che ci sono in illustrati nel PC, tu accendi, guardi al computer e ce ne danno di quelle ricette e uno si mette lì e fa. Non saranno professionali come li fai, però piatti buonissimi, se ne puoi fare tanti. Sì, infatti, io molti li ho imparati da un amico che sapeva cucinare, perché quando sono andato a vivere da solo io non sapevo cucinare, capito? E a cucinare mi aveva imparato questo amico qua, ma si sì, ha dovuto sapere la roba. Beh certo, no, io lo stesso, io non sono capace, in realtà, non sono per niente capace a cucinare. Al massimo posso friggere due uova e non so nemmeno quanto le posso fare bene. Per cui mio fratello sì, lui già sa cucinare tutto indistintamente, per cui ma lui si è sempre dilettato, si è sempre messo ai problemi per fare queste cose. Sa cucinare molto meglio lui che la moglie, anche perché lui adesso è in pensione, adesso già da anni è in pensione, mentre la moglie è ancora al lavoro, per cui quando arriva si trova già tutto pronto. E non solamente la cucina, ma anche tutte le faccende domestiche, perché quella esce presto la mattina, alle 8 deve essere già in ufficio, per cui mette il fratello, rimane a casa e fa tutto lui. Aspetta che è rientrata mia moglie, mi stava dicendo una cosa. Ok. Ah, questi cuochi, guarda, con questi cuochi, chef Gracco, quell'altro con la barba, anche in TV ci stanno facendo scatole così, e fanno, come si chiama, quel programma, come si chiama? E MasterChef, che fanno provare vari piatti a dei cuochi provetti, cuochi principianti, dipende. E quello critica, capito? Troppo cotto, troppo speziato, brutta presentazione. Non so se l'hai mai visto, sì? Sì, lo seguo quando c'è mia moglie che sta guardando la televisione, le volte lo seguo anch'io, ma lo seguo perché lo sto guardando mia moglie, non perché mi interessa a me come esperienza. C'era anche stasera, canale 7 mi sembra, sì, sulla 7, c'era anche stasera. Ma quelli sono illusivi, sono chef, ma sono tutti illusivi, insomma, per carità. C'è gente che sa cucinare, anche se non è chef, gente che sa cucinare veramente bene. Noi, c'è la sorella di un mio cognato, grazie, che non è, né chef, è tanto meno poco, ma tu, assai i piatti di questa donna, sono straordinari. Ma devo dire che anche lì ha lavorato in ristorante, per cui evidentemente è imparato, ma faceva tutt'altro, lo faceva nello chef, tanto meno il cuoco, capito? O la cuoca. Ehi. Ce n'è uno che si chiama Chef Rubio, no? E lui fa in giro in tutto il mondo ad assaggiare di piatti, no? Anche cibo da strada, roba pronta, no? E vedo che ha il vizio di mangiare lui, tranne che non siano zuppe o spaghetti, mangia con le mani, piglia il cibo con le mani e lo assaggia con le mani. Oh, è un fattore di cultura, non lo so. Ma spesso sfida qualche cuoco locale, tipo Giappone, può essere Centro America, capito? E certe volte risulta che lui l'ha fatto migliore, adesso poi bisogna vedere se questo programma è fasullo o se davvero lui cucina meglio. L'ho visto anch'io quello lì delle volte, ma poi fa anche altre tradizioni, tipo poco lavoro, cose del genere. Una volta che l'ho visto in una Sardegna, mi sembra che era, se ricordo bene, era venuto in Sardegna e stava lavorando in campagna, stava facendo lavori di fattorie eccetera. Mi ricordo, se ricordo bene, che era lui, sì, ma era lui. È entrato il pugno nell'ano di una vacca e perciò gli dirò secco, dentro a pugno, così, poi con tutto un braccio è entrato. È bellissimo. Proprio quando fa dei lavori sporchi e poi magari ogni tanto fa anche qualche piatto e sfida qualcuno, come stavi dicendo tu. Questo chef Brubio, no? Questo che hai visto tu, prima faceva rugby, a quanto ho capito, faceva rugby, quelli che si ammazzano tutti con questo pallone, che si pestano uno con l'altro, no? Si buttano uno sull'altro. E poi, fa questa cosa qui. L'ho visto anche in Sardegna, a me, per una coppa, per un cibo, e hanno fatto la sfida, no? Poi sono venuti tutti quelli del paese a mangiare, sia quello di quello conosciuto sardo, e poi la stessa pietanza fatta da lui con delle migliorie, e aveva vinto lui, Chef Rubio aveva vinto. Poi sempre bisogna vedere cosa c'è di vero in questi programmi, perché alla fine la TV è tutta favola, tutte balle. Beh sì, a proposito, poi quando stavamo parlando di quella cosa, di Battamore, eccetera, ti dovevo chiedere una cosa, ma poi tu ti sei allontanato, non te lo posso chiedere. Prova a chiedergli se quella donna effettivamente lavorava lì all'angolo di Viale Orfele, o Marco, tu che qualche volta ti prendi a parlare, eccetera, se è quella. Mi sembra che c'era il tabacchino, c'era, se ancora non lo so, c'era pane e il tabacchino. Io mi ricordo che quella donna di quella che lavorava lì, sempre che si arrivi, era mandata con un vigile urbano di Sassari, che anche lui faceva parte di quella famosa anonima sequestro, per quanto hanno scritto i giornali poi, non so se è vero, poi voi mi so, avevano sequestrato, mi sembra un po' troppo, se non se ricordo bene, sempre per aver letto sui giornali. Sì, la prossima volta che capito glielo chiederò, glielo posso chiedere. Sì, poi di questa donna è uscito anche l'articolo sul giornale. Purtroppo lei è molto determinata, dice io da qui non mi muovo finché non mi assegnano una casa, oppure addirittura non si fida, cioè vuole una firma, vuole una cosa scritta perché in modo che la affidino a lei o che sia sua. So che con questi neri che arrivano, dice che gli ha detto anche l'assistente sociale, che prima le case le danno ai Rom, poi a questi neri e in ultimo agli italiani. Il colmo, proprio abbiamo toccato il fondo. Per carità, abbiamo degli amministratori che fanno pena da quel lato lì, per carità. Come si chiama questa donna? Io non me lo ricordo a proposito. Lo sai tu come si chiama? No, non l'ho mai chiesto il nome, o se me l'ha detto non me lo ricordo, però sull'articolo della Nova c'era il nome, mannaggia, non me lo ricordo proprio. E purtroppo lì adesso queste cose a vista, questi borsoni, queste buste, c'è un bel di roba, poi c'aveva un piatto di roba da mangiare, no? Piatto di plastica coperto al centro con della carta stagnola, e intorno al piatto camminavano tutte le formiche, quindi figurati, o la roba la consuma subito o gliela mangiano le formiche, per carità. Io sarei morto o dal freddo o dal caldo o comunque dal tipo di vita, non sarei campato io così, non sarei riuscito a vivere lì. Tu immagina in inverno, col freddo invernale, col vento che c'è stato e con questi caldi estremi che ci sono stati quest'anno, lei sempre lì, posata su questa panchina, io mi chiedo come faccia a resistere psicologicamente, io sarei crollato subito. Veramente, questa donna ormai è abituata, dopo che ha vissuto 20 anni in carcere, avrà visto anche il figlio. Oh, penso di no invece, perché magari in carcere stava anche bene, bene nel senso che aveva tutto pronto, non era certamente una barbona, era una detenuta e basta, invece io sono una barbona. Testarda, non vuole andare nemmeno in quei ricoveri dove mettono le persone senza tetto, gli danno un tetto almeno, gli danno vitto e alloggio. Lei dice non ci vuole andare, perché come il carcere, è tutto orari, a quell'ora si mangia, a quell'ora si va a letto, non puoi stare fuori perché dopo una certa ora chiudono. E dice come il carcere, io l'ho conosciuto, ha detto e non mi piace andare in questi posti, voglio una casa mia, che mi assegnino una casa. Poveretta, però non lo so, ci vorrebbe qualcuno importante che ci metta mano. Ma qua questi magnaccioni se ne fregano, questi del comune. Sono dei magnaccioni e basta. Oh, figura di stare pensando a me, ma nemmeno per idea. Poveretta, anche lì avrebbe diritto ad una vita un pochino più decorosa. Del resto, vabbè, ha fatto quello che ha fatto, perché lei aveva fatto parte di questa anonima sequenza da corso, però ha pagato, ha scontato, e un essere umano non merita di vivere così, da barboni, io la penso in questo modo. Purtroppo le istituzioni non sono qua a Santa Rosa Veglia o in Italia direttamente, sono quelli che sono e non fanno utilità, se no l'avrebbero dovuto obbligare ad abbandonare la strada e a vivere in casa. Ora non mi dica, ma evidentemente anche lì è stata una persona sfortunata, tu mi dirai, ma ha sbagliato, certo che ha sbagliato, non ci sono dubbi. Ma anche quella del mondo, quando una persona sbaglia, anche quella si può considerare una sfortuna, tra virgolette, chiaro, vedi? Ecco, però ha parlato, comunque, adesso a questo punto è una cittadina come tutti gli altri, e avrebbe diritto ad una vita decorosa, non così da barbona. Infatti, anch'io l'ho detto, ha pagato il suo debito con la società, ha detto che ho chiesto, beh, questi neri, noi non siamo venuti da un mese e mezzo al mare, questi neri sono sempre qua, buttati, cioè rompono le scatole anche, rompono le scatole, sono invadenti, sono sfacciati, capito? Una volta andando al mare ho visto un gruppetto di neri seduti, uno era buttato per terra, sdraiato per terra, infatti credo si sentisse male, invece no, era sdraiato per terra per riposare, in mezzo al passaggio. Ma quando mai uno si butta per terra? Adesso che al paese solo stanno buttati così per terra, capito? E lo fanno anche qua adesso. Ma come vivono questa gente? Soprattutto tutti questi africani vivono proprio da cani, e anche quando mangiano seduti per terra così, dentro un segame tutto nero, tutto bruciato dal fuoco dove hanno cucinato il pranzo, tutti con le mani tutte sporche. Non è che hanno la forchetta, un cucchiaio lì o un coltello per mangiare, no, si entrano le mani così e prendono a fumo. È un mondo assolutamente traumatismo grave. Queste persone sono... perché sono così poveri? Proprio perché hanno questo modo di fare, di vivere, mentalità assurda. Poi non hanno voglia di fare niente. Ma raccontava un mio cognato anni fa, era andato a lavorare in uno di questi paesi, no, dove sono le neve, e mi diceva, dice, la mattina, dice, non si mettono nemmeno le scarpe, come si deve, le scarpe se le infilano così, senza le gambe e i lacci, e allo stesso tempo senza infilare bene il tallone, non se lo tiravano, tiravano la scarpa piegata all'interno, praticamente la rovinavano anche la scarpa. Perché ho talmente poltroni anche da abbassarsi e tirarsi per infilarsi le scarpe, si può immaginare. Ecco perché certi usano quelle babucce arabe, no? Che sono tipo sabò, no? Sono come delle pantofole, delle ciabatte, hanno la punta rivolta in alto e dietro non ce n'è nemmeno di tallone da chiudere, capito? Vabbè. Ma dovrà risolversi questa cosa. Boh. Questa Europa è un pasticcio, guarda, è un pasticcio, dice che siamo i penultimi, in Europa siamo i penultimi, penso che l'ultima sia la Grecia, figurati come siamo messi noi, l'Italia che una volta era una grande nazione, ai tempi dei Romani, ne ha conquistato tutta Europa, così come aveva fatto la Spagna anche, no, in un passato bello... è andata in America, ha colonizzato tutto il Centro America, parte del Sud America. E adesso invece è una stazione, lo stesso un paesello così, morti di fame. C'è il calcio, e la corrida, cosa c'ha la Spagna? Sì, la Spagna è messa bene con lo sport, sia per il calcio, sia per la corrida, perché è quello sport, se vogliamo, no? Sia per il ciclismo, è messa bene, e anche per altri sport, anche nel tennis. Insomma, è messa bene. No, la Spagna, diciamo che è abbastanza messa bene. Poi la Spagna è un territorio... A me mi raccontava sempre Emanuele, buon'anima, che era lui, il vino, lui era venuto sempre lì, dall'età di 18-20 anni, è vissuto fino alla morte qua, tante fino a 6 anni fa. Per cui me la contava, lui era nato a Valle d'Olivo, sì, è una città vicino a Madrid, che penso che sia, non lo so. Dice, ma ci sono delle strade lì immense, larghissime, non come qua, tutto viute, tutto colto. Ci sono delle strade, insomma, lì c'è una bella nazione, veramente. Per cui lui l'ha conosciuta, cioè è nato, però poi siccome era lì, di un sardo, la madre era spagnola, il padre era sardo, quando è rientrato il sardo con la moglie qua, naturalmente è venuto anche lui, però non è che ha vissuto, sì, perché era stato costretto, però lui aveva sempre nel cuore la sua terra, come tutti del resto, quando uno si sposta dalla sua terra, poi piacerebbe ritornarsi, rientrare, vedere e rivivere. Eccomi qua. Scusa un attimo, sto soffiando il naso, giusto? Questa volta sembrava un rubinetto. Io ho finito di mangiare anche il secondo pezzo di birra. Mamma mia, pesantemente condita, adesso è più buona. Ci mette un po' di sugo, ci aggiunge affettato, oppure altre cose, insomma, bella massiccia. Dicevo, Natalina era poi rientrato? No, non era rientrato. Cos'è che avrebbe vicino ascoltando? Qualche ricevitore, qualche cosa? Mi sono rientrato, cosa no? Aspetta, è andato a portare pure il cane, mia moglie. Volevo dire, bisogna fare come quel generale in pensione dei carabinieri che vuole andare con la popolazione a arrestare tutti i politici a Roma, perché sono tutti abusivi. E se parliamo di quello, gli abusivi in tutta l'Italia, ma tanti, anche in Sardegna, mi stavo leggendo al computer l'altro giorno, non so quante case ci sono abusive, e la gente, e che comune è intenzionato addirittura a demolire. Quindi tu come si fa a demolire? Poi voi gliele lasciate costruire queste case, poi gliele vuoi demolire. Ah vai, ci me la vedo. Tra l'altro hanno anche sanato le case, come fai? Non credo che possa riuscire il comune a fargli buttare giù, assolutamente. A proposito, adesso mando dove sarà tu, poi ha portato via tutto il reticolato che c'era con la rete, eccetera. Tu questo campo libero, adesso uno può entrare senza pagare niente, perché prima per entrare lì per parcheggiare con la ruota, ad esempio, o con il camper, ti facevano pagare. Ma lo sai una cosa, Giulio? Che quello lì, l'omino che faceva pagare, si è rimesso col tavolino, con l'ombrellone, si è rimesso lì a chiedere i soldi a chi passa. Nota la sfacciataggine. Perché si può immaginare? È zitto, no? Lo so, ma quando dice che è lui il proprietario, boh, non è che è arrivata la capitaneria di porto, ha mandato le ruspe e gli hanno tolto tutto. Anche i blocchi di cemento che c'erano lì per fissare questa reticolata, eccetera, questa rete là. Però cioè, dovrebbe dire la nuova chiaramente di chi è, perché ci sarà al catasto una cosa, allora questo perché chiede soldi? Allora questo diciamo è un estorsore, estorce i soldi alla gente, ma il terreno non è suo. Ma se era suo allora perché hanno tolto le recinzioni? Non si sa, non è chiara sta cosa, non era mai chiara già da prima. Vuol dire che è un abusivo, se gliel'hanno buttato giù vuol dire che è demaniale, appartiene al demanio quel terreno e quindi lui è un grandissimo abusivo, se gliel'hanno buttato giù quelle ruspe, la capitaneria, vuol dire che quel terreno è demaniale. Sì, insomma era uscito sulla nuova, fatto sta che un paio di giorni dopo che avevano buttato giù tutto è ricomparso, l'hanno chiamato l'uomo, l'omino con la maglietta gialla e con l'ombrellone, capito? E allora uno che entra non deve dargli niente, anzi deve chiamare pure il carabiniere e dice questo uomo sta pretendendo soldi per andare in spiaggia. Infatti, bisogna fare così, anzi, così una roba su se la Callinchi di Sangurone. Natalino sempre diretto, subito, poi così. Il terreno, a quanto sembra, a quanto ho capito io, leggendo l'altro giorno al computer l'articolo che pubblica il giornale, e non può più, perlomeno non avevo l'autorizzazione giusta per poter fare tutti questi metri, perché c'erano parecchi metri di questa rete. E lui si faceva pagare il parcheggio, quando arrivava la gente col camper e si faceva pagare il parcheggio per entrare. Però niente da fare, non si è stato. Ehi, farà così anche adesso. E si amano, poi ho sentito che era diventata di nuovo una, sembrava un capozingari, roulotte, di tutto c'erano, tende, sembrava una specie di, come che si chiama il termine, mannaggia, finisce con la poli, ma non mi viene, dai. Intanto nel frattempo lui in tanti anni ha usufruito del parcheggio a pagamento di fuori, che sia suo il terreno o che avesse l'autorizzazione in maniera sbagliata, ok, fatto sta lui in tanti anni ha incassato su, niente da fare. Ecco, l'autorità, se fosse stata l'autorità avrei detto adesso tu i soldi che ti sei intascato abusivamente li restituisci tutti. Infatti avrebbe dovuto, tanto dovrebbe pagare le tasse, perché se uno incassa, fa del lavoro così pubblico, deve pagare delle tasse. Evidentemente lui non ha pagato niente. Cosa vuoi dire? Insomma, ci sono delle cose che non sono abbastanza chiare e chissà come va a finire. Ma se gliel'hanno buttato giù, non credo che possa avere lui ragione, non lo so, perché da portatore hanno mandato le ruspe, hanno mandato e hanno buttato giù. Ah, ci siete ancora? Sì, io ho fatto un po' tardi. Sì, siamo qua, tra. Ehi, ancora, vorrei dire di lui ancora. Dovrei rimanere, almeno io poi. Sì, ma è così. Capito Marco, è stato quello. Marco uno, ma per tanti anni si è preso i soldi del partito. Ciao Claudio. Sì, dopo avergli buttato a Izimanno tutta la recinzione, questo uomo è ricomparso lì con la tavolina all'ombrellone a chiedere i soldi a chi entra lì in spiaggia. Non lo so. Comunque se uno non gli vuole dare non è obbligato, perché lui se è demaniale, a meno che non ci sia un pezzettino suo di terreno di passaggio, ma non può chiedere soldi, non credo che possa, se c'è una via, non lo so, Claudio, non da risai. Io lo so, ma conosco anche la persona, c'aveva anche un allaccio abusivo, figurati tu, che usava per bagnare, per non fare polvere. Ma lo sai che gli hanno buttato giù tutta la rete, il recinto, perché dice che non era suo quel terreno, quell'area era demaniale. Finché lo so, si sarà denunciato a Banoa. Nonostante tutto, continua a chiedere soldi, si è messo di nuovo. L'hanno detto sulla nuova. Avevo di andare nei carabinieri, buoni maetti. E che si riempiva la vasca anche grazie, senza banaldeva. Allora, la vasca ci aveva un salvatoio con una pompa innaffiava per dove passavano le macchine per non fare polvere. Capito, era organizzato anche. Non è possibile. Intanto però, quello che dico io, ma se uno fa delle cose che non sono lecite, motivo lo fai stare lì anni e anni, questo è il discorso, perché lui ci è rimasto tanti anni e è anche stato nessuno qua. Lo so, ma evidentemente nessuno l'aveva castagnato, capito? Lui ha avuto un problema con uno e questo l'ha segnalato alla municipale. Ah, ho capito, certo. Non è possibile. Ce ne sono tanti di abusivi. L'altro giorno stavo leggendo al computer, solo in Sardegna mi sembra che ci sono 1600 casi abusivi senza pulizia. E per non parlare poi di allacci di contatori, d'acqua, abusive, mamma mia, questa Italia poi è tutta rifatta da capo, non è possibile. Io aspetto adesso, ovviamente a fine anno fanno i controlli, mi vedi d'ora di ieri denunziata da abuso. È incredibile, ragazzi. Ah, lo sanno che sono cose che non si devono fare, no, c'è da fare, non frega niente. Loro vanno, attaccano, fanno, rubano, non è possibile. E poi magari anche una facciata si è lamentati, se gli hanno tolto l'acqua, mi hanno tolto la corrente elettrica, non credo, se c'è abusivo è chiaro che te la tocco. Ah, ti faccio ridere, se l'hanno fatto vedere a me senza sapere qual è il mio lavoro, capito? In una campagna, una bellissima casa, hanno fatto vedere a me, mia ba, ne pago domani, va cosa ci ho fatto? Ci ha lasciato la guida di vicino, capito? Senza sapere che io lavoro nel settore. Quante ignoranti hanno avuto la gente, no? Si crede furba, dice io ballaccio e così usufruisco, eccetera. E poi va raccontando così in giro senza sapere niente delle persone con cui parlano. Non si possono immaginare questo per fare la figlia, questo può essere il settore come sei tu, per dire no, ecco, questa è anche pura ignoranza, no? Qua. Ma ignorante, però, ignorante, come te che vedo Dio, un carabinieri che tu vai la macchina se senza assicurazione e seguire di senza patente, senza sapere chi c'è carabinieri. Davvero qui, adesso mi ha fatto venire a mettere una cosa, dove abitavo prima, nella casa dove abitavo prima, diciamo come era una palazzina con quattro appartamenti, uno per ogni scala. Questo qui era carabiniere, era. E un giorno, siccome aveva la campagna di verso San Giulio, quando è uscito lì dall'ingresso di San Giulio, l'hanno fermato la pattuglia della polizia e l'ha fatto una contravvenzione. Dice, guarda che io sono un carabiniere. E a me non me ne frega niente, sono un carabiniere per l'assicurazione, nella macchina non c'è qua. E dunque gli ha sequestrato la macchina. E lui pretendeva, ragazzi, perché era carabiniere, che lo lasciasse andare così tranquillo e pacifico. Per carità, proprio la barzelletta, Giocas, per carità, vai Marco. Guarda, ce n'è un bel di gente così, che si allaccia alla luce elettrica, c'ha l'acqua, Ivan ne aveva castagnato uno per esempio, lo sai, una zona assurda, che non ricordo che zona è, fuori città, proprio, adesso si era attaccato all'acqua comunale per innaffiarsi, il suo orto, la sua campagna, ed era un ex carabiniere questo tipo, che si è allacciato abusivamente all'acqua, capito? Poi non so come è finita, non lo so. E gli hanno raccontato Ivan, è finita che l'ha denunciato Ivan. Ma Ivan a lui o lui a Ivan? No, no, Ivan a lui. Loro... loro fanno quel lavoro, giustamente, ma non credo gli abbiano fatto un gran Kenny, magari è tutto passato cavalleria. Va bene, signori, che ore sono? Oggi non ho visto un telegiornale e vorrei vederne uno quasi quasi, iniziando, che inizia alle, non inizia nemmeno alle 8, inizia alle 19.57, studio aperto al canale 5, no? Mi pare di sì, non so, io guardo quello delle 8 e mezza. Sì, infatti è verso quell'ora, o Marco, c'era alle 5, verso, cioè, diciamo che dai i titoli del notiziero, e poi alle 8 precise parte il vero giornale. Sì, io Marco, ma non si va a ravvegliare, perché tanti anni fa, mi ricordo, tornando al discorso degli allacci abusivi eccetera, un noto commerciante di Sassari, e senza fare il nome adesso, si era allacciato alla linea elettrica era stato denunciato da bene, un noto commerciante di generi alimentari di Sassari. E io, guarda, quando ero piccolo, no? Entravamo alla vecchia clinica Sant'Anna, abbandonata così, no? Sai, per spaventarci, no? Corridoi bui, così. E c'erano dei gattini che andavamo a trovare. Tra clinica Sant'Anna e un'altra casa, un'altra villetta. E abbiamo visto che c'era un contatore alla clinica Sant'Anna della corrente, no? Contatore esterno funzionante, e c'erano dei cavi che dalla villetta a fianco, grossi cavi, andavano dalla villetta a fianco al contatore della clinica Sant'Anna, che era il contatore ancora attivo, te ne immagini? Sì, ma sai cosa deve fare? Quelli devono denunciare lo slancio del contatore, sai perché? Perché il padre mi ha raccontato, ma che fa? C'era una casa, c'è ancora una casa, e aveva affittato quest'uomo, aveva affittato il suo magazzino che era 50 metri più su, all'angolo di Granura, di fronte a Bottega, praticamente. Aveva abbandonato poi il magazzino perché l'inquilino era sparito senza pagare affitto né niente. Aveva lasciato un certo, non si sa che fine ha fatto quell'uomo, boh, non so se è morto, che succede. E cosa sa? Lui, il proprietario del magazzino, a un certo momento, visto che questo qui non era più tornato, ha preso e ha demolito un parte del magazzino per fare dei lavori, mi ha tolto l'impianto elettrico, ma si è rimasto il contatore. Questo contatore lì è rimasto per anni, è rimasto, nonostante che era interessato all'inquilino, questo contatore qua, dopo anni l'hanno chiamato a questo, sai che l'ha portato in tribunale Venezia? E l'hanno condannato a lui a pagare tutte le spese di coso, come si dice, di cauzione, eccetera, perché anche se non consume, perché di consumo non ce n'era, anche perché non c'era più l'impianto elettrico, ma c'era rimasto un contatore. Per bene, questo contatore era sempre attivo. Hanno portato il proprietario del locale, perché l'affittuario non c'era più, l'hanno portato in tribunale, hanno fatto il processo e l'ha condannato in giudice. Col vacca. Ti ascolto Claudio. Vieni avanti, già l'hai visto il messaggio? Sì, che c'ha il mio, non c'ha i poli del 48. Sì. Un No, no, vabbè, sto usando un microfono normale perché è molto bassa come, come modulazione. Giulio, mi senti tu? Certo che ti sento, benissimo. E la voglia? Bene, la radio è buona, non è bassa, boh, perché non si muove il lago, lago dello Smitter, capito? Si muove poco, poco, poco. No, non è bassa, no. La radio normale è buonissima, no? Non ci sono problemi, è abbastanza forte. Anche da te, Marco? Sì, sì, non è bassa, non è bassa. E quello Smitter sarà fatto così, forse si mette un amplificato dai picchi. Capito Claudio? Non puoi prendere un BB più 4 o più 5, tanto mi per quello che costa, servono sempre i microfoni. Lo attacchi lì e aumenta molto. Anzi ti dirò, con l'MB più 5 puoi regolare anche i toni, te lo puoi ottimizzare. Problemi, no, ma ci vediamo stamattina, se c'è l'MB più 4 è che c'è la connessione io a ISU, perché lo usavo con l'FT 920, capito? Che mi pare un giorno ve l'ho fatto anche sentire, usciva benissimo. Voglio lasciare così, ma se mi rompo le scatole taglio e metto un connettore a 4, capito? Perché questa radio non la sto più usando. Alla fine poi le valvole si rovinano, capito? Perché esce molto bene, c'è una ricezione favolosa, favolosa. Adesso mi ho attaccato l'antenna e poi sì che l'accendo, così la provo, visto che ce la fate voi, ma se il microfono questo non è molto amplificato, però la radio è buona, io le corde vocali già ne ho, non ne ho bisogno di amplificato, Marco. Eia, tu no, ma io sì. Bene, ma le valvole già erano calde quando sei entrato, sì, l'hai fatto preriscaldare. Sì, e c'è un paio d'ore acceso, lo tengo sempre acceso, solo che antenna ne attacco mai, adesso ne ho approfittato, ce l'avete voi, e gli ho attaccato l'antenna, capito, l'ho attaccata dal 440, l'ho attaccata al DAT. Mi sento perfettamente, però ascoltandomi in cuffia, la radio non è molto forte, ma potrebbe andare bene, va, per fare due chiacchiere, ma non penso ci siano problemi. Giulio? Va benissimo qua, io ti sento benissimo, radio 5 è perfetta, non è bassa, no, non è bassa, io ti sento bene, ti sto ascoltando con K, per cui ti puoi immaginare, più fai leve di quello, non ne ho altri io, per cui va benissimo, va benissimo. Io il volume com'era, quando eri toccante con l'altro microfono, l'ho lasciato così, non l'ho toccato, e ti sento quasi allo stesso volume, quasi allo stesso volume. Come potenza di radio, naturalmente quella là ha un'altra timbrica più piacevole, più bella, indubbiamente questo è un microfono normale, però come volume, non ti credere che sia molto più basso, no? Assolutamente, perlomeno qui da me, poi non so dalle altre parti, non lo so. Va bene, se mi dici così va bene, allora uso anche come microfono normale, va, non c'è problema. Dieci watt tondi sulla T230, capito? Perché ho sganciato solo lo spettrone e l'antenna è collegata alla correttore del K. Va bene, così usiamo anche questo, va, per fare due chiacchiere più che sufficiente, tanto una decina di watt, 8 watt già, sono più che sufficienti. Comunque ho tardato perché ero giù col cane, poi mi sono messo a parlare con uno qua del prato, ho tirato sull'antenna, al minimo c'erano 200 storni sopra le antenne, Giulio. Allora ho portato sul cane, sono salito su e li ho fatti andare via, capito? Poi sono sceso e ho fatto ruotare un po' l'antenna a 360 gradi per muoverla, per far vedere appunto per infatti dirli, va. Ma era completamente coperta di nero l'antenna, le direttive, capito? Per quello ho tardato. Ok, figurati. Hanno trovato la pacchia lì si possono fermare su quelle antenne, già lo credo. I volatili purtroppo sono così. Però quando cominciano ad essere tante, caricano di peso e l'antenna può sono anche danneggiata se vogliamo, anche se è piazzata bene, lo so, è piazzata bene, magari anche abbastanza resistente, però dai, è se non c'è nemmeno un meglio. Vabbè, dai, mi hanno già fatto lo squillo dalla parte bassa della casa per la cena, è arrivato adesso mia figlia con mio genere, per cui devo scendere giù alla cena. Grazie amici della chiacchierata, ci sentiamo eventualmente domani, siamo in Cile, speriamo che ci sentiamo ancora domani, perché in questi giorni siamo tutti un po' figli, ciao qua, grazie della chiacchierata, ne parliamo domani dell'Italia, o anche perché martedì c'è la prossima partita con il sentito paese religioso, là. Stavo dicendo, tanto è che siamo amici che è capace del mondo, perché se non riesco a superare i playoff, non ci va l'Italia quest'anno, già lo sai. Con la sconfitta di ieri è costata molto, perché ci sono tante squadre che fanno il playoff, sono squadre dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda è normale, l'Irlanda del Nord, tante altre squadre importanti, la Grecia, poi altri che non me li ricordo nemmeno. È un rischio, guarda, se non si scende all'Italia, non ci andiamo quest'anno al mondiale, o meglio, al prossimo anno. Ciao Marco, salutoni, grazie a te per la chiacchierata e ciao Natalino se sei ancora ascolto. Saluto a tutti, grazie. Io ascolto il vostro Pinalino, poi chiudo. Ciao, ti prendi qua. È andato giù, va bene, sì l'ho vista, da schifo. Sì, con l'Israele dobbiamo giocare, quindi anche gli israeliani hanno imparato a giocare come i marocchini, capito? Quindi già stare molto attenti. Poi Giù Baetti, se non valdremo ai mondiali sono più contento, non manco fermo figura meglio di quella dell'anno scorso, là, per capirci. Va bene, ciao Giulio, buonasera, buon tutto e ci sentiamo alle prossime. Avanti Marco. Ciao Giulio, un salutone, buona cena, buon proseguimento della serata. È lo stesso per Claudio, ok? Dai, sentiamo domani quando capita. Buonasera a tutti, ciao anche Natalino se l'ascolto. Ciao Marco e Giulio. Ciao Claudio, io adesso me ne vado a cenare. Ci sentiamo alle prossime. Ciao Totali, pensavo che avevi già chiuso. Mi ascolti bene anche tu lì, sì, col batter il microfono normale. E un po' cupo ti ascolto. Un po' cupo, è vero. Allora, va bene, dovete inserire magari il filtro quello un po' più stretto lì con la radio. Ma infatti anch'io mi sento cupo. E vabbè, mi rompo le scatole, mi ne taglio il connettore a 8 e glielo metto a 4, a quello MB più 4, almeno lo posso usare sto l'acqua. Va bene, ciao di nuovo a tutti, grazie delle due chiacchiere. A domani, buonanotte, buona cena, buon tutto. Saluto anche chi è in ascolto qua sul canale 10. Ciao! Ok, ciao a tutti di nuovo, ciao! Ciao, ciao! Ciao. Ciao chi mi ha salutato. Ciao Vare, buonasera, mi hai ascoltato? Mi ascolti, sì? Occupa il microfono normale, giusto per fare due chiacchiere in città, se no questa radio, questo transatlantico, già l'ho visto, questo DAC non lo uso mai, allora bisogna farlo andare un pochino, la radio è quella che è. Va bene, ciao Valerio, un abbraccio, ricordati che ti devi sempre prendere quella colonnina. Ciao Valerio, d'accordo, va bene così, dai, quando vuoi tu non ci sono problemi. Già lo so, fammo colpo il telefono, ma io adesso da metà settembre torno alla normalità, quindi la sera sono a casa. Ciao, buona cena, buon tutto a tutti, la più cordiale, fine serata. Ciao.